Canal DJ. Amici, sono io Regina, direttamente dall'Italia. Questo video è per mandarvi un bacio, un beijo e I wanna live all my life, day by day, I wanna live every day, as my last, I wanna live all my life, day by day, I wanna live with Canal DJ. Canal DJ.